avanti, chi è avanti questa portata bassa, avanti che fischiava con una portantina saltava un 4. Ma chi è? Scusi. Chi te lo ascolti? Buonasera. Ma chi tu sei? Perché non lo sento bene. È basso. Ma chi io? Parla, sei lontano dal microfono. Ma chi io? Ma giù sì. Ma sei... di cosa? Di segnale sei in onde. Ah, prima si... è del radio... insomma... Oh, come radio è buona adesso. Oh, stai facendo bene la radio, è perfetta. Indovina bene, ma aggiustando sta. Il Midland che ho comprato, ma il nuovo. Oh, va bruva. Oh, la del radio sta uscendo perfettamente, proprio limpida. Ah, ecco. Attaccato, ma il microfono stai mettendo bene. Prova, già so di nuovo. Stai innescando, Bacchi. Bip. Bacchi, prova a parlare, a vedere. Oh, stai innescando. Sei una trombetta. Io sono dalla Vabacchi. Ehi, Abacchi. Che ti qui là? Ehi, a volte ne scavi, a volte si affrusci. Allora, ricordo. Adesso sono nuovo, adesso vado avanti sul vecchio. Solo sul nuovo va. Adesso non posso fare sul vecchio. Ma stai provando, il vecchio stai provando. Non da Bacchi. Dove? Sei a Bacchi. Ah, qua, adesso non ho il microfono vecchio. Funziona. Ci metti il nuovo, non funziona. Invece il nuovo funziona. Vuol dire che è toccato qualcosa. No, i collegamenti sono uguali. Anche con questo funziona, però sta uscendo come che sia roba, sai, tipo ti porti un'alternata dietro. E la radio allora che secondo male. Adesso non te lo conosco, lo metterò il nuovo. Ma non provarlo sul coso, sul nuovo, no. Così lo tiri. Vedi, questo è il microfono sul nuovo. Il suo originale. No, quindi ti ho verificato che quello ha cambiato la capsula. Ah, il coso, quello da tavolo. Sì, yeah. Mi ascolti? Ah, stai uscendo bene. Tranquillo, le cose, radio buona, perfetta. E allora è la radio quella che non funziona, no? E la radio malata? Ma quale? Quello... il coso? L'Intec è grande? 74 canali dell'Intec. E la radio che non funziona? Che cosa vedevi, Davide? Infatti. Io lavoravo su quello lì, cercando di collegare il microfono. Era quello che mi girava le scatole, che non funzionava Edo. E qualcosa si deve avere. Infatti. No, adesso lo faccio bene, rimetto la copertina che ci vuole, perché me li segna e ci filo la plastica, per cui non ce n'è, lo devo togliere la roba, ma questo non ne aveva, chi ce l'ha dall'americana? Un coso, Bacchi, qualche alluminio bucherellato non ce l'ha? Sì, è per il microfono. Per metterlo davanti. C'è già. C'è un coso di caffettiera. Ah, già. Da un coso, un filtro di caffettiera l'ho fatto. Va tu. Gli ha messo quello giusto per coprire. Ho tagliato, ma non mi sono incazzato. Posso fare pure un caffè. Ma noi si caffè, certo. Il marito non si sente, no? Ancora lavorando sta. Ah, boh, ma lo so, boh. Non lo so. Entro da traiente, che intendia, boh. Stavo a fare il lavoro in casa ancora, non ho finito. Ma al buio non sta facendo nulla. Dalle 5 non si vede più un'acca. Infatti, dalle 5 non si vede più nulla. Già c'è l'anno che viene a assassinare il... Se no che dovete trovare con i lampioni stessi. Già ci muore un lampione. Certo. Se no, come ti fai? Se non fai un lampione. Allora bugio si vede un'acca, non si vede nulla. Zero riporto zero. Infatti, ma che in campagna date si vede nulla. Ora un lampione si accende. Marino. No, da te in campagna non si vede nulla. Poi la cosa sono sceso che erano le 7, alle 6 e mezzo sono partito da qua. Alle 7 in campagna non si vede nulla, da te si rompione pure. Ma alle 7 del mattino? Sì, alle 7 del mattino non si vedeva niente. Io ho acceso il lampione. Catania freddo per già rassaddo. No, freddo non viene. Hai già sentito il suo faro stradale che faccio il riservatoio. Illuminato tutto quanto lo via sale. Infatti. Illumina tutto, illumina. Infatti è così che... Però fate consuma correnti. Visto, erano 500 candele solo. 500. Fa luce ma consuma. Se ti pone sotto per fare un gaggio. Infatti, forse ha fatto i ruzzi, sono cose, bisogna, quelle lampadine forti a LED bisogna prendere. Ma fuori si bruciano, quello è un lampione stradale, che li si mettono nelle strade, capito? Ehi, una lampadina di quelle a LED, no, non te ne fa luce? Non ci ho mai provato, non penso di no. Perché questa proietta, anche da dove la tettoia, dietro la tettoia si vede per entrare e fare, si illumina, dentro la serra lo stesso si vede bene. Lo so che illumina e sono forti, ma come te consumo, gli altri qui dentro grandi sono belli. Il LED illuminerà sotto il naso e basta. Non fa luce perché quello lì adesso era fermo, io più di un anno accendevo e poi ho detto chissà che funziona, e infatti funziona, se no devo andare a comprare la lampadina nuova. Io di quelle lì le avevo viste buttate su a coso, a autoparco, non so cosa hanno fatto pulizia. Ah, ce n'erano parecchi di quei lampioni lì. Sì, quei lampioni c'erano anche solo dei buddi, c'erano, capito? Magari c'erano anche le lampadine dentro. Magari c'erano anche le lampadine. Le lampadine che stanno usando adesso, quelle consumano poco, consumano. Aspetta, al telefono un attimo. Vai. Ma chi c'è? Dimmi. Io ti lascio per il momento. Ci sentiamo dopo che vado a prendere mia moglie da mia figlia. Vai, che io continuo a fare il lavoro, allora vai. Sì, ok, Bacchi. Matisio! Ehi! Che va così? Sì, è tornato su! Andato, vado, torno e rientro! Tanto bene, io ho collegato quello là! Collegato tu lo sì! A posto è adesso! E adesso come va? Adesso va bene! Per Midland! Quello che ho collegato! Oh, il microfono normale. È normale quello lì, quello c'è la capo sulla piccolina che in cielo passa. Sta uscendo bene, perfetto, limpida. Claro, ma poi di quello là è malato. Io volevo tornare a risaldare tutto per rifilarci la, che cosa, la guarnizione, che qui non è stata messa. Io ho sconciato intorno a tutto. E guarnizione devi mettere? Non c'è quella specie di cosa, di tubo trasparente per non piegarsi. Manca quello lì. Ah, è vero, nel cavetto. Ci vuole quello lì, che sennò non puoi fare nulla. Se non stringe, si gioca. Infatti è soltanto un altro microfono. È tutto qua. O le cambio il filo o le cambio solo le vostre. Se conveni, ragavannendo tu segnati come ti erano. Me li segno prima, no, lo so fossi tonto, no? Infatti, usa il disegno, usa, e lo segni, come ho fatto io. Ho un disegno, mi fa una fotografia. Sul telefonino, fai la fotografia e te lo guardi voi. Fai così. Io nel coso, nell'M più 5 M più 4 ci avevo segnato dentro nel coso suo originale, il rosso. Il cartoncino. Questo adesso io e lo metto qua. Perché se lì ci vuole anche le viti, invece qua c'è tutto. Che è tutto, da là alla zeta. E se i collegamenti sono uguali, il riabbattizio ho fatto solo per fare quattro saldature. Sì, già sono qua, se in caso stai lavorando, fallo mio. Devo guardare adesso, non corrispondono i colori. Questo c'è il nero, il rosso, salto al verde, invece quello che in mano io c'ho. Giallo, rosso e nero, e calza. No, non ci siamo, cambio lo spinotto completamente. Ti conviene far così, perché secondo il coso c'ha il giallo che invece che il verde, in uno c'ha il verde invece che il giallo. Esatto, c'è il verde, il nero e il rosso, e calza, invece in questo picchio io tra le mani, rosso, giallo, nero e calza. A posto del verde c'è il giallo. Infatti, molti c'è il bianco, rosso e nero, è la calza. Questo qui è il rosso, giallo, calza nero. Posso anche provare. E infatti, secondo i capi, hanno un colore diverso, secondo. Infatti io in questo capo del coso ho il giallo, in quell'altro capo ho il verde. Cambiano, ognuno fa da meno più, ognuno fa meno più. Ma non è molto che cambia, in molti c'è il bianco, c'è, hai capito? Maria oggi non si è fatto. Ho capito, Bacchi. Maria oggi non si sente per nulla. Chissà, i gallo gue saranno i buddi. A ciò che andate. No, perché molte volte la figlia gli lascia il nipote. Io lo faccio, non si è sentito, ha disertato la riunione. E Giulia. È così, è assente, bisogna metterlo al registro. Io oggi non c'era. E infatti, bisogna fare così, bisogna fare. Quando stai lavorando non vai a timbrare il cartellino per essere regolare. E così è qua, non finisce di essere regolare. andiamo siamo qui presidente della Repubblica, come signore povero. Hai visto Rolando cosa c'ha? Un orologio da 2 milioni, 2 milioni, ho 20 milioni, cosa del genere. Prima la sera lampa di un comodo che non è via via. Io ero buffa la lampa di retina così, hai compreso. Ero buffa. Se è stato un corso di un comodo, se l'hanno fatto un minuto 30. Hai detto non puoi applicare a me. Cioè, te ne ho giocato tenni, va, fa una cinghietta. Ma già durante l'originale. Ah, sta troppo tappo. Tu, se non mi piace. Cammina. Io di nano travagliati, quindi sono solo rubati. Cosa vuoi fare? Il pallone, quando si è famosi, entrano un bel di là. Purtroppo. Catta, io ho già l'originale, la cinghietta. Catta, 50 euro la cinghietta. Ti devo sapere se non mi dico. 50 euro. Che cosa sai per questo? Festina. Ma la cinghietta solo, mi, 50 euro. Che strada? A che dico? No, oh, è perché è in acciaio buono e non si graffia né nulla. Ma... il fatto che la chiusura che si faccia, anche invece punire il pezzetto d'acciaio e poi un pezzetto di gozzo di ferro, si arrugginisce e si rompe, anche si blocca. Hai capito? È così. Bisogna usare il lavoro. Fare consumo. Allora, non ne ribillo però. Guardo se riesco a trovare la chiusura non originale ma perfetta. Purtroppo, ma guardo sabato se riesco a trovarla in qualche posto. È al mercatino delle pulci. Poi finirà, me la giurirà di non vanno nuda, non vanno, riduzzi veci. Non va più. Non vanno nuda, e poi vanno soldi pure. Orologi vecchi hanno, orologi vecchi, antichi. Sì, non va di roba, non è moderno ma è elegante, che ce l'ho ridotto. Non dire, non ne ho levato, magari c'era anche qualche momento buono, solo che a comprare la scatola chiusa, vedete. Faccio. A me mi si viene il cinghietto, mi si viene, non mi si viene. Hai compreso? Ci ho provato a guardare se ne trovavo qualcuno così, adesso non vanno nulla. Su internet non hai guardato? Ehi, ho trovato il suo, ho trovato l'originale suo. De la Samaca no, non venne nessun lungo, solo quello lì. Solo quello lì c'era. Stavo guardando se riuscivo a trovare il pezzetto suo di qualche altra cinghietta diversa, ma che non da va, o si inacciappano. Se quella è fatta per il fondo di e quella serie lì di Corruggio, hanno fatto una serie di cinghietti tutte uguali. Non va bene a un altro orologio, va bene solo a quello lì. Ma io stavo cercando il pezzetto della chiusura, che ne ho visto altre in altre cose. Però di questa ombra cinghietta non anda a comprare la cinghietta. Stavo guardando, ma che non da va. Dove passa il ferro, il gancio in pratica. Il gancio, più che altro, stavo guardando quello, però stavo guardando la misura giusta, ma che, non da va. Perché qua diciamo una misura perfetta, ogni cinghietta è fatta per quella misura, non è poi adattata, magari o è più larga o è più assoluta. Trovare la misura giusta. Il pezzo suo è da 8 cm, è da 8 mm, è compreso. Il coso suo, è proprio così, e proverà a Biden di altri internet, avessi venire lì, con le cinghiette da 12, 13 euro. Ma che, nulla da va. Ho più manna o più minori? Sicuramente più minori. Bisogna trovare l'originale proprio. Oppure cambiare la cinghietta. La misura sua proprio non sono riuscito a trovarla. Ne ho trovate parecchio di cinghiette, però non c'hanno la misura sua. E la cosa da mi usci al corso. Se l'ho fatta vedere, ma non c'ha nulla, non c'ha le cinghiette, non c'ha nulla. Infatti sabato me lo porto appresso e devo andare da questa qua che ce li ha, c'ha tutte le esposizioni delle cinghiette. E non preso Bacchi. Perfetto. Perché da Meucci c'ha qualcuno alle cinghiette, ma non vanno a vedere. No. Chi è qui? Poi, peggio di Meucci. E quello che c'è via Cesare Battisti. Al grattacielo, sotto il grattacielo. Non c'è più lì su. Non c'è più lì quell'orologiaio. C'era chi mi sembra vicino al bar? Ehi, c'era, una volta. Non c'è più, fallito. Non so se mi pare che ha ciambato il dono, ha ciambato. Non so, però mi ha detto poi che sono anni che non ci passa. E poi chi c'è? Che cosa? Quello al corso. Sotto al corso, al palazzo della città. Quasi di fronte a via di Santo Marco, via Duomo, anche via Duomo. Quello che rimane vicino a via Duomo, all'angolo. Vicino all'uomo, no? Il palazzo della Zidai. Che via è quella lì? Via Sassa, mi sembra. Dove era prima la burocmatica? All'angolo c'era un orologiaio. Quello lì era un amico che ce l'aveva, poi è morto e l'hanno venduto. E c'era un'altra signora adesso. E quello c'era un mucchio di pasticci così, di cinghiette, roba varia, orologi, orologini, tutta questa roba veniva. L'unica cosa è... Boh. Adesso guardo, sabato me lo porto appresso, me lo porto. E guardo da questa signora qua che c'ha il coso, città mercato, ma è così che... Di portargliela che guarda quelle che c'ha lì, che qualcuno in qualche cinghietta già gliel'ha data. Il suo originale che hanno raggiunto costava 30 euro gusta. Però non mi conviene più pigliarla qui, fa 6 mesi e si dovrà troncare. Allora no, allora non conviene. Conviene comprare un altro taroccato, questo assomiglio. Infatti, conviene pigliarne uno taroccato a vedere se riesce a ciapparlo, preciso, la cinghietta precisa quasi. Adesso devo vedere. So che quelle che ho trovato costano un po' garibo. E ai cinesi ci hai provato? Ai cinesi? I cinesi c'hanno roba che non serve. Quelle che c'hanno, in acciaio che c'hanno, gatta, fanno i fifo. Se si facciano subito. Tu devi pensare, avevo comprato tanti anni fa un orologio. Con 3 anni di garanzia e in acciaio inossidabile, tutto in acciaio. La cinghietta non si è fatto niente, la cassa è uscita la cromatura, non era acciaio inossidabile, era rame verniciato. Infatti è così, ma la cinghietta era in acciaio proprio, e il resto era in coso, tipo da roccaddo era, diciamo, fatto in un materiale che non serve. Ma se il rame è fatto, siamo in campagna, la avanti e indietro non c'è un graffio, perfetto. E l'orologio, la cassa di rame, diventata nera. Con una sbaglia un secondo, è perfettissimo. Il movimento è perfetto. E ce l'ho su io, 4-5 anni. Non ho cambiato mai batteria. Ah no, era di quelli automatici era. Ma è batteria, vedono perfettamente bene. Solo è bello pesante. Solo che il difetto, 3 anni di garanzia, c'è un inox, tanto il certificato. Quando ho cominciato a fare le prime macchie ci sono andato. Ah, dice, lei che c'ha cosa ha usato? Non l'ho usato, ma sì. Il coso si sta sbriciolando, è difetto di fabbricazione, lei mi ha venduto per essere acciaio, non è acciaio, è ferro vecchio, perché a me ci hanno venduto per acciaio, l'ho parlato per acciaio, questo lo devo vendere, ah, hanno potuto te, è tutto a me. Hai compreso, comunque sarà in garanzia in 3 anni, la garanzia di 3 anni è di Rodovia, può mandarlo in fabbrica, oppure farlo cambiare, fargli cambiare la cassa. Cambiare la cassa, ma non devi spedirlo tu a spese tue. E ritornare a spese tue. Non pagavi il pezzo e la manodopera, però il trasporto non pagavo. Certo, hai compreso. Tu hai detto, ma lavoravamo a te. Magari mi costava più dell'orologio. No, sono 9 euro sono per spedirlo. 9 euro, e 9 euro per tornare. Le poste sono 15. Le poste sono 15, ho fatto un pacco Angelo l'altra volta. 15 euro, senza essere assicurato. Se l'assicuri ce ne voglio al doppio. No, io ho mandato il pacchetto, il passaporto a mia figlia, 9,90 euro ho speso a Londra. Bisogna il peso anche, so. Quella era una radio, era, pensava intorno a 1,5-2. Vabbè, la radio sì che pesa, però un orologio non è che pesa assai, no? Non lo so com'è la posizione. Infatti ho chiesto lì a Gioielleria, ma dice a spese sua, deve spedire e poi quando ritorna sempre a spese sua, e ha detto allora fa una cosa, a me non mi vedi più, ciao. Infatti i russi, se ne buttano una base, se ne buttano. Campagna, peraggio, i russi abitano loro, è un peccato. Infatti devo andare a quello di cosa, quello di mia mamma, se mi procura una cassa di quelle misure, perché è una misura grande. Facci pure che te lo procuri lui, e te la fai giamba. Ah, se no forse ordinare la cassa precisa. Sempre gli tramandano sempre questa locata. Acciaio, rame. La verniciatura c'è d'acciaio, è rame. Era durato 2 anni e ha cominciato a fare i difetti l'accordo. La verniciatura. Sì, no, non era acciaio buono, non era. Io mi raggio, ho avuto mi raggio già 6 anni eppure non si è fatto mai nulla che ti faccio nel polso, sempre uguale. Se uno è sotto, se mi aveva regalato l'acciaio dove lavoravo, è acciaio, ma che sia acciaio, pesa un trovo, una cosa è un Rolex, no. Non è dove, l'altro, un'altra marca, non me la una marca famosa che vede in giro, palizia. E quello è acciaio, ma è acciaio visto però. E sarà il secco. Il secco è buono, è la marca più buona. Ma quando è buona la cassa che è acciaio come si deve, non si fa, deve la sera, è bagnata, hai fatto vedere che era in acciaio, invece non è acciaio. È bagnata in acciaio, infatti non sento quello che mi ha regalato, c'è un cassetto, lo uso ogni volta di babba. mia, che pesante. No, io ce n'avevo un altro di orologio della Citizen che lo mattessi con la cassa in acciaio e tutto quanto, me ne caggio giù in terra e si è fermo. Eppure quello che ho io in campagna, San Marcello me l'ha messo, c'è una scritta piccolina dentro. O in terra, sai quante volte è caduto, non ho un'idea, sempre andando. A me me ne è caduto, dritto me ne è caduto l'orologio. Ma di me ne è caduto se è fermo. Io sono uno donato, ce l'ho bagnato in oro. Me ne è caduto e si è fermo. Deve essere partito però il condensatore che c'è dentro. Deve essere partito. Che hanno battuto i condensatori, si ferma. No, quello di mia moglie è a Corva. L'ho regalato al matrimonio, in oro. È a Corva. Non lo tratta mai a chi mi dice che dalla magna. Sì, signor Gussisso, lo devi dare a mangiare, lo devi dare, anche se no si fermano. Fasene in mezzo, fasene un'ora, a voi si fermano. Una giornata di lavoro che si fa. Poi se lo vai a mangiare si ferma, bisogna ogni giorno dalla mangiare. Io c'avevo un lanco, me l'aveva regalato mio padrino alla crisi. E se lo avevi a mangiare si fermava, allora poi se fermo la camminata pure, sempre un garage, fino. Non faccio che su di la crisi, ma lampada una bassa, ci bisogna andare lì a gola, mi sono ciuffato sempre da lì a gola. E se la giucuta una bassa, se la giucuta. Qui bisogna andare sempre in gola, se no lo cammino. Così mi avevano regalato una cipolla, bella. Se la di a mangiare, mi dimenticava dalla mangiare, campi la virura, lui a oggi va a dire, non ve la virura. Infatti, bisogna fare così, bisogna fare. Ma non so di chi si, infatti, se non so come manco niente di cito che sono ridotto. Ma io, grazie, mi sono a buttare, non si sono affrontati. Se anche posso dire che vedrei, sono trombe. Tanto no. Allora deve andare a trattare, non cammina più, fanno anni e anni e anni. E ci dovevano portare a svolgere, pulirlo, farlo, cosa più cosa, un travaglio non lo riduce. Infatti, cosa più travaglio che non riduce. Vabbè. No, io ce l'avevo dentro una scatola, ce l'avevo, che poi forse è ancora dritta questa scatola, me lo devo dire qua. Un lanco, poi c'era la scatola di loro, mi pare, non me la metto più nemmeno come te la faccio. Mi pare che c'è di Zeni 2 in coso, in via Manno, se passo qualche giorno gli porto questo orologio che ho e me lo porto a aggiustare, perché è bello elegante anche. Ah, ma che bolino mi lo usa per la domenica. No, basta proprio vedere, ma che è bravo quel signore. Oh, il stesso pecchio non è ritornato, ma è ritornata anche la batteria, ma te lo conto. Ma io c'è tutto questo roba sua, mi sta portando la bottina, e mi ha dato, e io non ne faccio niente, se lo porti a casa, se lo buttare lo butto, se lo conservare lo butto, e è un carattere da un parte. Stavi basso, non per rimane mi hai detto, ma all'angolo giù, in fondo. Ma tu, ti conviene andare in tram qua, vai col tram, con la 25, quando superi via Roma, se ne scende, fai il tranzo, supera via Roma, è la prima fermata che c'è, dopo via Roma, lì se ne scende. Ti giri a spalle indietro perché la fermata che c'è non è che ti affanno. Fai 3-4 metri indietro e c'è la porta del signore qua. E c'è le 23 pecore e tutti i regali. Prima del supermercato? Come supermercato? C'è un supermercato lì, che quello di Multinido, che è Seconad. Su più su di Multinido, sulla destra scendendo. Il su di Multinido. Sulla destra scendendo. È la prima fermata del tram dopo via Roma. Sì, tanto già devo uscire venerdì tanto devo uscire e mi prendo il tram e prendo, me ne scendo lì. Tanto viene in macchina e dove posteggi? Poi a quando posteggiare viene mezzogiorno. Infatti, il vostro cucino, il Udra, e altri Udra. Vabbè, dove va che sta in cinghietta, buro. Ma quella è la buca. È un signore che ci va a fare. C'è di tutto. Prendo, aspetti, lo guardiamo, dice, per fare questo ci vuole tutto, lo vuole fare o no? Come ti dici, non lasci, lo faccio con no, ti dice più primo. Infatti glielo faccio guardare per vedere se riesce a mettermelo a posto. Se il condensatore non lo so, poi ce lo va dietro. C'era tutto il movimento. Capito? Perché cambierà tutto quanto il movimento, perché anche il mio era quello lì. È entrata acqua. Acqua, lì si è entrata acqua, a me mi sembra di condensa. Magari era caldo. E adesso un po' di luce fredda, si è fatto con destra e si è fermato. No, quello che ho io, se lo vedi, dentro c'hai così, tipo pietre rosse. E poi c'ha una bobina e più c'hai il condensatore per la batteria. È giusto, insomma, tuo. Era da farli parlare, non da buttare il tappeto, e da farlo vedere. Infatti adesso glielo faccio vedere se si può mettere a posto un vostro buon appulso. Ademacaburue. C'era un sacco di anni, poi un bel po' di anni è fermo. Oggi buttiamo una base a Giubbuto e poi ci ha mandato pure la cinghietta. C'è anche la cinghietta che di Marche si è rovinata. Ho preso. Se non ce l'ha, di oggi. Ordina dai tutti, dai venditori che hanno l'autorizzazione per le marche lì. Ordina, se a Cagliari te lo ordino a Cagliari, se no lo ordino a Puglia, infatti non è questo, deve aspettare qualche giorno perché se non c'è a Cagliari deve arrivare da Milano, infatti ha aspettato una settimana in più, lo chiamate e potenga il cerologio pronto. L'orologio si chiama Lancaster, si chiama, ed è buonissimo come orologio. Che se la vai di Trento, gatta, è un peccato lasciarlo. È roba estera, non è roba italiana. No, roba italiana è questa è roba italiana. Italiana, ecco, forse dice. Allora sì, già i trovi qui. Si cambierà tutto il movimento, guarda come ha fatto a me. Si lascia la cassa e il quadro e le frecce, dall'altro cambia tutto. Ma no, questo no, non è da cambiare, è il condensatore sicuramente che è partito. Perché metti la batteria, va per 2-3 mesi e poi si ferma. Hai compreso? Perché è il condensatore che fa andare la batteria, che dà corrente. È il condensatore che se la mangia. Infatti, se lui è buono a farlo, se c'ha saldatore buono da saldare a fino, allora sì. Non lo so, penso che già abbia saldatore, perché all'inizio l'ho messo a riparare anche proprio in oro, il lavoro in oro, si ripara. Ah, c'è il saldatore, c'ha il saldatore per l'oro. Sei bravo già, sono già io bravo già lo sa fare. Se no deve spedire su in continente, lo deve spedire per farlo. Chiaro. Bisogna chiedere a lui, il signore del mestiere, lui. Siamo charlatani su questo campo. Infatti io lo volevo portare dopo l'avevo comprato. Vabbè, hai due vecchi virani che hanno già regato, era in agosto e lui proprio il coso era in ferie. E poi ha detto, ma a me lo fa si va. E non mi sa che abbia andato. E te lo dice al mercato, ci sei stato. Quello che c'è all'angolo in fondo del mercato. Quello sì, è da quella signora lì che devo andare sabato. È da quella signora che devi andare. È abbastanza gentile, ho visto. Che siamo andati allo scorso con Mario mio genero, così a curiosare. E abbiamo chiesto il prezzo dell'orologio mio, se mi poteva riparare oppure comprare un nuovo. Adesso conviene ripararlo, se farlo lui. Mi ha detto conviene ripararlo, così sta a dire. Non è che lei dice, no, conviene ripararlo, dice, se comprare un nuovo. E dice, è tutto nuovo. C'è solo il movimento, si fa cambiare il movimento. Infatti in via mano, l'ho mandato lì, no, l'ho mandato. E adesso già ci passo, venerdì ci vado. Ci vado venerdì e vedo cosa mi dice. Ma ce l'abbia lì, la cinghietta, se ce l'abbia. Non sarà l'originale, sarà una taroccata, perché ci vada bene. Infatti. No, io quello lì, quello vicino alla pizzeria sta dicendo. No, dunque, in fondo a tutti, vicino alla farmacia, all'angolo in fondo a tutti. Qui c'è un corso. A fianco c'è quello degli occhiali, Perella, dopo Perella. E t'ho compreso che sei di quello dell'angolo, sì. Di fronte c'è quello delle pizze, c'è quello lì. E io c'ho Strui, stai dicendo tu. Non so. Sì. C'è una pizza che sono io, non mi ricordo come si spiegava. Infatti, comunque dentro ci sono tutti gli scaffali che dovevo già esposto, ce ne sono mille qualità. Già è così, sì, già è Strui, c'ho la tessera di quello lì, cioè, ho comprato lì orologi. No, l'orologio è quello che c'ha mia moglie, che dalla cinghietta, è quello come entri dopo OVS, di fronte a OVS era, dove era prima. Quello lì, la gioielleria, quello lì l'ho comprato, infatti mi aveva ordinato lì il pezzo della cinghietta, 30 euro, me ne so fare delle braccia, ha detto, certo, quando mi sono cambiato, ha detto, signora, guardi, 6 mesi ce l'ho quel pezzo, 6 mesi me l'avete piazzato e si è tornato rotto. E caspita, se vuole io torniamo a ordinare, no, lasci perdere, 30 euro ogni volta che lo devo cambiare sono 30 euro e mi dura 6 mesi. Ecco, ho perso lo scontrino, se no gliel'avrei riportato, gliel'avrei fatto cambiare. Infatti lo scontrino mi bastava, ma l'abbiamo fatto giamba torra, la via, ai pesi giugni. Infatti non mi vedo più. Ha detto che se me lo ordinava, mi ha detto no, lasci perdere, che meglio. Certo. Là è buono, un riduto è in acciaio proprio. Ma fai subito 30 euro. Oh. Vabbè dai, Bacchi, ci sentiamo alle prossime, mecciamenti. Ok, ci sentiamo domani. Ciao, sono il bene. Sì, ok, ciao Bacchi.